Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Raccogliete le idee, le opinioni o voi che ascoltate, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, perché si ricomincia a commentare insieme, come sempre il sabato, i fatti della settimana, sempre moltissimi accidenti, poi in particolare in questi giorni quante cose ancora sono successe, per lo più negative, con qualche sorpresa, qualcosa di positivo, insomma sempre una grande entropia, come diceva Pasolini. Allora, il numero per voi è sempre lo stesso, il numero verde, gratuito e mi viene da dire anche ecologico, essendo verde, 800 24 0024, numero verde 800 24 0024. E io direi, inizierei subito con il sintetizzarvi alcune delle notizie, no? Sappiamo, anche quando ti dicono così a sangue freddo, qual è il tuo film preferito? Uno magari ne ha 17 e non se ne ricorda neanche uno, quindi cominciamo a fare proprio un riepilogo molto sintetico. Naturalmente il terremoto che c'è stato in Emilia-Romagna e le scosse che continuano, gli sfollati, le vittime, questa storia dei capannoni crollati come castelli di carte e gli indagati che già ci sono. Poi sono stati stanziati 150 milioni di euro risparmiati da questo primo taglio dei rimborsi elettorali, anche se leggevo oggi sulle prime pagine, no, anzi del Corriere di due giorni fa, i rimborsi ai partiti, c'è un primo sì, ma si dimezzano solo per quest'anno. Ecco, vabbè, se proprio volete, allora li dimezziamo per quest'anno, poi si vedrà, sembrava un po' strana questa cosa. E l'attentato di Brindisi, di cui abbiamo parlato sabato scorso, che c'era stato purtroppo sabato mattina, però sembravano c'è la caccia ai killer, sembrava che fosse stato trovato qualche colpevole, non è così, tutte le piste, come si dice in questi casi, sono aperte. L'anniversario della strage di Capaci, poi ci sono state anche le esequie di Placido Rizzotto, sapete, il sindacalista ucciso nel 48 dalla mafia, poi sono stati trovati i resti di recente, quindi si è anche riaperta l'inchiesta ed erano stati chiesti i funerali di Stato, per fortuna ci sono stati con anche Napolitano presente. I risultati elettorali, con la politica, sorprese e amarezze, delusioni, scompiglio, insomma, con questo grosso cambiamento che è avvenuto a Parma, con il sindaco Pizzarotti Grillino, anche se non vogliono essere chiamati Grillini, già ci sono dei dissidi infatti tra Grillo e Pizzarotti. Sarotti, lui dice no, io sono autonomo, ho vinto perché sono io, Grillo sì, è stata la nostra bandiera, ma in realtà insomma, anche qua non so come definire questa situazione, vedremo. Intanto è interessante, un laboratorio, un esperimento molto interessante per l'Italia questo, con il PDL nella bufera, la Lega anche insomma a scatafascio, il PD che ha tenuto abbastanza bene anche se aveva creduto a Parma di vincere contro una squadra di Serie B e poi è andata come è andata, con la Lega che non si capisce perché manda messaggi contraddittori questa settimana. Qualche giorno fa ha detto stiamo meditando, ha detto Maroni, di scomparire dal Parlamento, poi quindi di ritrarci dal Parlamento, poi ieri sembrava che avesse aperto ad Alfano al PDL, ma vediamo che cosa si può fare, che proposte hanno, devo capire chi comanda, ha detto, se Alfano o Berlusconi. Tra l'altro anche Montezemolo annuncia di scendere in politica nel 2013 e anche lui sembra, sono circolate voci che abbia detto voglio sapere però se se ne va Berlusconi, poi pare smentite da Alfano, però sembra una condizione sine qua non, forse nell'area, non si capisce se è una cosa effettiva, reale. E Berlusconi che intanto rilancia il presidenzialismo in Italia, molti interventi anche su questo argomento sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, poi magari con un po' di tempo qualcuna la vado a leggere, a cercare. Cos'altro? Fornero, ecco, la ministra Fornero che ha parlato della possibilità di licenziare anche i dipendenti pubblici, poi mi direte se siete d'accordo o meno. E gli stipendi, è passata una legge, un primo sì alla Commissione Senato, secondo questa legge gli stipendi saranno uguali per uomini e per donne, ma dal 2016, io mi chiedo, dovevano essere dalla preistoria, mi chiedo perché si rimandano al 2016. Sono d'accordo con l'ex ministra Carfagna che ha detto giorni fa, è già un reato fare stipendi diversi per pari qualifiche e pari titoli tra uomini e donne, mi sembra di essere perfettamente d'accordo con lei. Sapete cosa è successo in Vaticano? Giorno prima è stato sfiduciato il capo dello IOR, della Banca Vaticana, Gotti Tedeschi, e poi ieri questo corvo che è stato trovato con le carte in mano, che erano uscite queste carte segrete dalla scrivania del Papa. Il rapporto Istat che ci dice che i giovani sono sempre molto in difficoltà, che l'Italia è sempre più povera, che i salari sono fermi, le donne penalizzate. Poi se vogliamo spostarci anche sull'estero, le presidenziali in Egitto che sono in un grande caos, la Siria che è sempre in un bagno di sangue, e il Parlamento europeo che torna a chiedere ai Stati membri dell'Europa di favorire l'accesso per le coppie gay a istituti giuridici come la coabitazione, l'unione registrata e anche il matrimonio. matrimonio, e un sacerdote protestante, un pastore battista negli Stati Uniti, nel North Carolina, che dice: chiudiamo i gay in un recinto e così moriranno di fame. Poi le traversie di Facebook in borsa, quotato in borsa, la sentenza sulla legge eterologa in Italia, sono moltissime. Ecco, decidete voi, 800 24 00 24, e andrei subito anche a dirci questa settimana cos'è che ci fa capire perché non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Ecco, io direi che già la notizia che ha dato la ministra Fornero è non ci sono più le mezze stagioni, no? Sembra il posto sicuro, il posto pubblico, da che sento i nonni, i bisnonni, il posto pubblico. In realtà pare che anche quello non sia più una sicurezza. E un'altra cosa anche che ci leva, diciamo, un po' di entusiasmo è questa storia di Disneyland. Avete presente, negli Stati Uniti, no? Allora, Disneyland è considerato, soprattutto quello americano, viene chiamato il posto più felice del mondo. Ebbene, in questi giorni hanno deciso di aumentare il prezzo d'ingresso del 30%. Cioè, uno dice, il posto più felice, la felicità costa. Cioè, manco lì uno vuole rasserenarsi, un po' confortarsi di quello che succede, della crisi, della disperazione anche di tante persone, di una certa depressione. Vai lì, devi pagare il 30% in più. Io dico, beh, mi sembra proprio il momento giusto questo. Ecco, direi che ne abbiamo abbastanza al momento. E a questo punto saluterei con molto orgoglio un opinionista estemporaneo che si era praticamente palesato la settimana scorsa facendo una telefonata da ascoltatore, anche lui al numero verde, che ripeto è 800 24 00 24, e signori e signori, l'ho invitato per oggi. Paolo Crepè. Buongiorno. Buongiorno caro Paolo. Come va? Piuttosto bene, tu? Beh, no, l'altra volta ero in macchina. Eri in macchina, adesso sei più tranquillo. No, adesso sono tranquillo, mi sono messo tranquillo per voi perché... Perché Paolo, diciamocelo, diciamocelo, per te il sabato non è sabato se non ascolti Non ci sono più le mezze stagioni. Dillo, assolutamente, Molto bene. Paolo Crepè non ha bisogno di presentazione, notissimo psichiatra, sociologo, autore di moltissimi saggi, il più recente L'autorità perduta, il coraggio che i figli ci chiedono, che poi affronteremo anche trasversalmente attraverso i vari, le varie notizie pubblicato da Einaudi. Parleremo di tante cose e credo con un taglio anche particolarmente adatto a te, anche se tu Paolo sei uomo di mondo, sì, sai parlare di tutto, però devo dire una settimana piena di sentimenti, dalla paura, dal terrore, no, per Brindisi, per il terremoto, alla paura dei politici che si sono visti un po' messi all'angolo, almeno dei partiti tradizionali questa settimana. Poi il coraggio, la speranza, la rassegnazione, l'ipocrisia, l'entusiasmo, insomma, tante questioni, anche senso di precarietà anche da questo rapporto Istat che è uscito, no? Ce ne sono quindi di argomenti anche legati ai sentimenti, all'emotività da trattare. Ma prima di tutto, visto che tu sei psichiatra, Paolo Crepè, intanto volevo avvisarti di una cosa, Paolo. Io non ho nessun plastico oggi qua, non so se ti va bene. Peccato. Lo stesso che... Ciao. Va bene. No, non ce l'ho nemmeno io. Neanche tu, cioè uno dei due. Io so che quando sei da Vespa c'è sempre questo plastico di qualsiasi situazione. Volevo farne uno con Bossi, Bersani, PDL, non sono riuscito. Però vedi, posso dire una cosa? Dal punto di vista comunicativo, sì, questa cosa per cui lui è stato preso in giro, Vespa, che comprensibilmente è... Però la gente se lo ricorda. Ah, certo. Siccome la televisione è fatta anche per rimanere nella testa e non per fuggir via 3 secondi dopo, allora su questo bisognerebbe forse anche ragionare. Accolto l'obiettivo, però è anche vero a volte, diciamocelo Paolo, che a volte sembra... Posso dire una parola proprio grossa, forte, grezza, un po' di speculazione quando uno con la bacchetta dice qua è il sangue che scorreva lungo questa scala, lo vedete, il corrimano Ma questo è sempre così però, la televisione è così. Cioè voglio dire, se uno si ricorda, adesso forse non sono in via di estinzione anche quella, ma le edicole con strage di grilli, ma era sempre il giornale locale che diceva pensionato travolto. Qui ha mantenuto quello stile, perché se tu dici Giovanni ha preso il massimo dei voti non gliene frega niente, purtroppo. Buon per Giovanni, però Paolo, dicevo, siccome tu sei notissimo, bravo, esimio psichiatra, io ti voglio sottoporre una cosa. Si parla di lapsus, no? Di lapsus freudiani, che significa che uno dentro ce l'aveva quella cosa, non gli è scappata, ma in qualche modo la pensava. Senti questo lapsus. Credo stia lavorando bene la Commissione Affari Costituzionali del Senato, che sta varando un testo che già contiene quelle evoluzioni di cui poco fa riferiva il Presidente della Repubblica, il Presidente Berlusconi. Quel lavoro può produrre... Non sorride. Non sorride, non ha sorriso. Secondo te, Alfano, ci avevano parlato prima, vogliamo vedere che magari questo presidenzialismo arrivi alla presidenza della Repubblica. Secondo te questo lapsus da dove viene? Proprio freudiano, molto ad hoc, perché è la sua speranza, forse anche la speranza del presidente che non è presidente, insomma, credo che si stiano arrampicando con le unghie sugli specchi per sperare qualche cosa che è del tutto evidente che non avverrà mai, ma non è possibile, ma lo sa benissimo Berlusconi. Cioè non è possibile che si attui il presidenzialismo in Italia o che Berlusconi diventi presidente della Repubblica? No, che Berlusconi diventi, no, il presidenzialismo per certi versi credo che sia anche una cosa, se abbiamo appena gradito un cambio di guardia all'Eliseo, non vedo perché dovremmo poi dire sì, in Francia sì perché sono più maturi, da noi no perché eleggerebbero chissà quale soubrette, non credo. Credo che gli italiani siano per un popolo maturo, lo si è visto anche ultimamente, credo che i risultati a cui tu facevi riferimento dei titoli sono anche risultati interessanti, guai a pensare che siano solo cose goliardiche, credo che siano molto interessanti. Adesso bisogna ovviamente vedere, visto che qualcuno ha voluto la bicicletta, come sanno pedalare, insomma, vincono il Giro d'Italia, questo non lo so, non ho nessuno strumento, credo che non ce l'abbia nessuno, visto che sono tutti apprendisti stregoni, quindi vediamo se imparano a fare gli stregoni. Ci vogliono degli stregoni molto bravi, perché quando a Parma c'hai 900 milioni di buco, ci vogliono magie, ci vuole professionalità, molta professionalità, non dubito che salti fuori, anche perché poi un sindaco può anche nominare degli assessori, come dire, siciliani piuttosto che austriaci, quindi può attingere alle migliori menti, ai migliori talenti, vedremo che cosa verrà fuori, basta aspettare da qui a Natale, poi vediamo. Cominciamo a sentire le vostre voci, le vostre opinioni, per esempio quello di Antonella da Parma. Sì, buongiorno Roberta. Eri un po' incerta, Antonella? No, ecco. È che aspettavo di essere messa in collegamento, sono in linea già da un po', comunque nessun problema. E volevo dire questo, che qui a Parma io ho votato per Pizzarotti, perché in realtà la situazione era quella di un ritorno al passato. Quindi ormai siamo stanchi delle vecchie politiche, il comune è commissariato, la città ferma da tantissimo tempo, grossi problemi proprio di lavoro per tutti, e quindi tentiamola la carta, poi sarà quel che sarà, però almeno l'idea di provarci era fondamentale. No, mi sembra interessante, come diceva Paolo Crepè. Dimmi una cosa, Antonella, che cosa del programma di Pizzarotti, per esempio, a te ti ha convinta di più? Ma sicuramente l'idea dell'inceneritore, ecco. In quanto io sono un ecologista convinta, a Parma gestisco un ristorante biologico vegetariano, quindi ti dico... Quali sono i tuoi valori, insomma, subito. Esattamente. Poi lui è una persona molto legata al discorso ecologico, al discorso ambientale, e quindi noi abbiamo una città molto inquinata con tantissimi problemi, quindi a questo punto ben venga il nuovo, specialmente se in direzione di migliorare la vita e la salute di tutti. Ma un'altra cosa che stavo pensando, Antonella, questa cosa dell'inceneritore, no? È una cosa che piace immediatamente anche a me, a chi non piace l'idea di non avere più sotto casa un inceneritore. Poi però ci si domanda anche, ma lo smaltimento di rifiuti poi come potrà avvenire se ogni città, ogni luogo effettivamente si impunta e dice io qua non ce lo voglio un impianto di smaltimento, come si risolve la questione? Ma io, Roberto, sono convinta che basterebbe soltanto educare le persone e sensibilizzarle alla raccolta differenziata, perché potremmo fare veramente grandi cose. Io ti assicuro, nel mio ristorante io raccolgo tutto, alla fine il mio unico rifiuto è la spazzatura, che raccolgo proprio scopando i pavimenti, punto e capo. Quindi la cosa è fattibile, manca la sensibilità, manca la comprensione nelle persone che tutti dobbiamo collaborare al bene comune e non soltanto chi è preposto a titoli politici. Questa cosa dei dissidi già tra Pizzarotti e Grillo, come la vedi? Ma io sono assolutamente d'accordo con Pizzarotti. Grillo è stato, diciamo, amplificato a livello di media questa idea nuova di politica. E però io ho votato Pizzarotti, non avrei mai votato Grillo. Ah, questo è curioso però. Sì, assolutamente. Antonella, grazie, ti ringrazio di Prego. Questa disponibilità, buona giornata, queste idee. A voi. Buona giornata a te. E Paolo Crepè, che ne pensi di questa analisi che ha fatto Antonella? Beh, interessante. Penso innanzitutto, mi viene in mente un sindaco del nord-est una volta che mi diceva: sai come sono diventato sindaco? Dico no, sono diventato sindaco con un comitato per il no. Basta inventarsi un no e poi la gente si aggrega. Ecco, questa non è buona politica. Secondo te è bastato perché, quello a Pizzarotti? No, non sto parlando di Pizzarotti, non lo conosco, no, sto parlando del problema che, come tu hai accennato, il problema della discarica non si risolve portando l'immondizia in Olanda, pagandola al prezzo, che perché l'Olanda non ce la manderebbe mai a noi, come mai? Napoli per esempio la porta quindi, in Olanda, sì, ultimamente. Ma anche Pizzarotti dice che va bene così, quindi ci sono anche dei conti da fare, però che poi ricadono sui cittadini che l'hanno votato, quindi la cosa è complicata. Dire di no è molto semplice e lo fanno anche i bambini. Il problema è dire che questo è un paese che ha bisogno di sì. Noi siamo 20 anni che diciamo no. Berlusconi diceva no al comunismo, Prodi c'era tutti i no dentro la sua coalizione, noi siamo dei campioni del no, e il problema è che poi ci troviamo nello stato in cui ci troviamo proprio perché no, perché non si può fare l'autostrada, perché non si può fare una linea ferroviaria, perché non si può fare una discarica, perché non si può fare questo, non si può fare quello, poi alla fine sono tutte, il governo è una cosa che è superiore agli interessi individuali o anche agli interessi delle lobby, il governo è il governo, quindi bisogna anche avere la maturità per fare delle cose che forse dispiacciono a Tizio Caio o ai rappresentanti di Tizio Caio, per quanto poteri forti possano essere. Tra l'altro, restando sulla politica, vedevo un'agenzia di pochi istanti fa, abbiamo parlato di Montezemolo che ha ufficializzato insomma che ci sarà una sua formazione nel 2013, persino Pietro Grasso, che è procuratore nazionale antimafia, ha detto mai dire mai, a proposito di una domanda che qualche giornalista gli ha fatto su una possibile discesa in campo, come si dice ormai da qualche tempo in politica, mai dire mai, dice, ma chissà. E sentiamo Sergio da Catanzaro, sempre al numero verde 800 24 00 24. Sergio, non mi ricordo perché adesso tutto a memoria, Catanzaro si è votato anche o no? Sì, ecco. Ciao Roberta, ciao. Complimenti per la trasmissione. Sì, grazie. Si è votato di recente anche se con tutta una serie di problemi connessi a voti contestati e a ipotetici o possibili brogli elettorali che sono stati oggetto ancora di attenzione da parte della magistratura. Quindi com'è finita? Chi è il sindaco a questo punto? Il sindaco è Abramo, è stato nominato sindaco, ma stiamo aspettando ancora il completamento delle indagini. Del PDL? Prego? Del PDL? Sì, del centrodestra. Tu l'hai votato, se posso chiederti? Sì, ho votato. Cosa ti ha convinto di... del suo programma, delle idee che ha esposto nella sua campagna elettorale, perché l'hai votato? Ma guarda, lui era già stato sindaco della città per circa 8 anni, aveva fatto tante cose, quindi una riconferma, conosceva bene i problemi della città e quindi voglio dire era il sindaco già rodato, e il problema più che altro è legato alla condizione contingente della città, perché è capoluogo di regione ma ha avuto tante vicissitudini dal punto di vista politico, e quindi riuscire, il sindaco precedente si è dimesso dopo 8 mesi, quindi capisci che la situazione della città è un pochino complicata. Ma la tua notizia qual era? Scusa, io volevo intervenire per quanto riguardava il problema dei dipendenti pubblici, del licenziamento dei dipendenti pubblici. E io sono un medico, lavoro in ospedale, sono un dipendente pubblico, e volevo dire che non mi spaventa l'idea che il nostro contratto di lavoro ci equipari poi ai privati e quindi ci renda licenziabili come i privati. Però vorrei tanto che il ministro, invece di preoccuparsi di emanare nuove leggi, applicasse quelle che già ci sono, perché per esempio il problema della mobilità, che in una regione come la nostra, che è sottoposta a piano di rientro, quindi con blocco del turnover del personale, ha creato, come in altre regioni nelle stesse condizioni, una situazione esplosiva, perché bloccando il turnover in alcuni contesti, come nel mio ospedale, si è passati da 2.200 dipendenti a 1.800. Quindi sotto organico. Per cui siamo a livello esplosivo dal punto di vista dei carichi di lavoro. Mentre in altri posti ci sta esubero di personale, ma il personale non si sposta. Quindi invece di preoccuparci di licenziare il personale pubblico, sarebbe bene che si cominciasse a lavorare ai problemi della mobilità, che nessun politico vuole fare. Quindi poi la gente non si deve meravigliare se si votano liste come quella dei 5 Stelle, perché se la credibilità dei politici cade anche su cose banali come l'applicazione di leggi già disponibili, è chiaro che poi andare a cercare l'emanazione di una nuova legge dà l'impressione che si voglia fare tutto tranne quello che necessariamente si dovrebbe fare. Ho capito, caro Sergio. Grazie, saluta amica Tanzaro. Ciao Roberta, complimenti ancora. Ciao. Grazie. Tra poco c'è anche Angela da Bergamo e centinaia e centinaia di telefonate che Gian Gabriel sta prendendo, Gian Gabriel Lombardo e anche Micolla al centralino, ma mi avvertono che abbiamo un collegamento, sapete, l'unico al mondo, un collegamento extraplanetario. Riflessioni da Marte. Un piccolo stivale che si agita in una costante danza convulsa, una specie di Charleston scoordinato, diciamo. Ecco come appare la penisola italica vista da quassù, da Marte. Una danza convulsa che suscita non pochi interrogativi. Per esempio, cosa sarà che fa dell'Italia uno dei rari paesi dotati di una commissione stragi in Parlamento e che tra l'altro negli ultimi anni ha concluso poco o niente? Cosa sarà che fa mettere a qualche assassino sprovvisto di anima una bomba davanti a una scuola di ragazzine e a qualcun altro poi fa creare su due piedi dei mostri per caso? Cosa sarà? E cosa sarà che dopo il terremoto che ha sconquassato parte dell'Emilia fa ipotizzare al governo la possibilità di realizzare, proprio lì, nelle zone più devastate dal sisma, un gigantesco deposito sotterraneo di gas? Cosa sarà? E cosa sarà che ha fatto pensare tenacemente, sino a ieri, sino a 24 ore fa, che fosse opportuno collocare la nuova discarica di Roma a meno di un chilometro dallo straordinario sito archeologico patrimonio dell'umanità di Villa Adriana? Cosa sarà? E cosa sarà che ancora una volta, pur nelle stanze del Papa, conferma banalmente che il colpevole, alla fine, è sempre il maggiordomo? Cosa sarà? E cosa sarà che dopo le sorprese e le sberle elettorali lascia i partiti tradizionali, specie alcuni, a bocca aperta, ma comunque pur sempre a occhi chiusi e pancia piena, davanti all'incalzante domanda di cambiamento? Vi siete mangiati tutto quello che c'è, finché non ci resta più niente perché ci avete ridotti così. E ora andate via di qui, sì. Tutto bene per voi, dite state tranquilli, tanto il peggio è per noi, ma non si può più andare avanti così, è ora che ve ne andate via da qui, e allora lo capite o no, continuare così non si può. E ritorniamo coi piedi per terra, era chiarissimo il messaggio del gruppo Le Rivoltelle, il gruppo tutto femminile. E andrei da un'altra donna al numero verde 800 24 00 24, prima di sentire ancora l'opinione di Paolo Crepè, che è Angela da Bergamo. Angela. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, complimenti per una trasmissione che permette di fare riflessioni su tante cose che non vanno. Angela, quindi una trasmissione straordinaria, vuoi dire, in poche parole, no? Dunque, io volevo dire che sono scandalizzata dalle voci di corruzione che sempre più riguardano il Vaticano. Penso che sia incredibile sapere di queste lotte di potere che coinvolgono spesso Bertone spesso alti prelati, e mi chiedo che rapporti ci sono tra religione cattolica e questi personaggi che sono tanto lontani, da anni luce, dai valori che dovrebbero rappresentare e applicare nella loro vita. Ed esprimo solidarietà a Gotti Tedeschi, che è stato rimosso dall'incarico, da un incarico importante, e anche perché era in contrasto con Bottone, e soprattutto l'arcivescovo Viganò, che ha denunciato la corruzione e perciò è stato spedito in America. Gesù ha cacciato i trafficanti dal Tempio, e chi potrebbe fare altrettanto in Vaticano, dove piuttosto che il bene trionfa il male, gli intrighi, l'ipocrisia e tutto quanto, anche per quanto riguarda la pedofilia, le nuove disposizioni che hanno preso, veramente sono solo ipocrisia pura. Angela, ti ringrazio, è stata chiarissima, lapidaria. Paolo Crepè, che ne pensi di... Ma è segno dei tempi, ma però non è una cosa recente. No, infatti. Marcinkus, ce lo ricordiamo bene, sono passati lustri, non credo che sia molto cambiato, visto che poi quello che è accaduto... Papa Luciani voleva fare un po' di pulizia, io mi ricordo, il mio Papa ufficiale, Papa Luciani. 33 giorni. 33 giorni, e c'è anche chi dice che non sia morto di morte naturale, quindi questo io credo che i fedeli credo che debbano fare una scissione tra ciò che credono, la fede, l'onnipotente, e chi è sulla terra. Chi è sulla terra assomiglia molto agli altri, terribilmente agli altri, quindi quello che abbiamo visto accadere anche in queste ore in Vaticano, con tutte le imbarazzi che ci sono, lo scaricabarile, cacciare via delle persone probabilmente per bene, che volevano semplicemente mettere nero su bianco una situazione insopportabile, soprattutto in questo momento, perché poi non possiamo prendercela solo con la politica. Se molta gente nel sud Europa sta male, guarda caso sono anche popoli molto cattolici, no, noi spagnoli, portoghesi stiamo male, tiriamo la cinghia, e poi sappiamo che lo IOR è nelle mani di qualche trafficante, di qualche gente non proprio per bene. Beh, insomma, questo è ancora più insopportabile, perché che i politici non fossero dei santi l'abbiamo sempre saputo, però poi chi sta lì vorrebbe anche avere un'aura di santità. Almeno chi mira, diciamo, alla beatitudine, alla santificazione. Dove possiamo trovare? Perché ci dovrebbe essere nel comune di non so dove. Neanche il celestiale pare, come viene soprannominato, appunto, Formigoni, perché prima notizia del Corriere della Sera online è Dacco, il faccendiere, che dice: vacanze pagate a Formigoni, e lui replica: mi dimetto solo se provate i favori che avrei ricevuto, che avrei fatto a Dacco. Ecco, volevo tra l'altro dare almeno un'occhiata, visto che sono sempre molti gli interventi sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, almeno sulla questione del presidenzialismo, capire le posizioni di chi ascolta e dei facebookiani, come li chiamo. Poi ci sono anche molti commenti sull'esito delle elezioni amministrative, ma incominciamo a dare un'occhiata. Per esempio, a proposito dell'essere favorevoli al presidenzialismo, Adriano dice un secco no con punto esclamativo. Roberto scrive: purché non si candidi uno come Napolitano, si vede che non gli è piaciuto. Daniele: sarei favorevole che il sopracitato Berlusconi si esentasse da qualunque proposta, perché era nella domanda, qualunque proposta presente e futura. I danni li ha lasciati a noi occupandosi solo dei suoi interessi, altro che senso di responsabilità. Massimo: ma non è che ogni sciocchezza detta da quel Bontempone, dai suoi serventi, dice, debba essere presa in considerazione? Carlo scrive: no, non sono d'accordo, banana, è finito con lui e con lui anche i suoi servi. Stefano: sono molto duri questi ascoltatori. Stefano dice semplicemente: no, non sono d'accordo. Luca: sì, sul presidenzialismo. Tra l'altro, la proposta del doppio turno è quella cara al PD, quindi non vedo perché debba opporsi. O meglio, lo capisco, visto che la legge elettorale vigente conviene alla sinistra, cioè visto che loro uno straccio di coalizione ce l'hanno, mentre gli altri sono divisi. Boaz scrive: non vedo nessun individuo degno di tal potere, cioè di essere presidente con i poteri del presidenzialismo. Davide dice: decisamente no, le camere da letto del Quirinale devono rimanere immacolate. Mi fa una battuta Gianfranco: se mettono il doppio turno pulito, Senza altri magheggi, anche sulle elezioni delle Camere legislative ci si può pensare, sarebbe una soluzione. In Francia, con quel sistema, con l'elettorato frastagliato e scettico che c'è ovunque, in Europa hanno fatto un governo in 2 giorni. Lorenzo scrive: non capisco che senso abbia il presidenzialismo. Il proponente in questione, cioè Berlusconi, non ha capito niente della Costituzione della Repubblica Italiana e parla solo a sua convenienza. D'altra parte dice: ha sempre fatto questo e solo questo sa fare. Poi, Emilio, il problema è che lo sta proponendo lui, questo basta a impedire un'opinione serena sull'argomento. Rosanna scrive: potrebbe essere, ma per una volta abbia la decenza di farsi da parte. Lui no, ha già dato tutto il peggio di sé a questo povero paese, allo sfascio. Insomma, vari pareri. Sentiamo, anzi vorrei sapere da Paolo Crepè. Paolo, prima di sentire moltissime ascoltatrici e ascoltatori che sono in attesa, in paziente attesa, ti volevo... A proposito del tuo ultimo libro, L'autorità perduta e il coraggio che i figli ci chiedono, no? Il rapporto Istat dice: donne penalizzate, i giovani sempre più rassegnati, e ci sono più di 2 milioni di giovani cosiddetti NEET che né studiano né lavorano. È colpa di chi? Ma è colpa di tutti, naturalmente, ognuno sa le sue responsabilità. Quando un fenomeno è così largo, così pesante, è chiaro che si parte dalla classe dirigente, che ovviamente non è stata selezionata, né è possibile selezionare nel modo in cui abbiamo vissuto in questi anni la politica. Vanno avanti delle persone che non hanno curriculum, che non sanno fare niente. Poi è chiaro che poi ci domandiamo come mai. Il famoso mai, merito, poi, no? Finché, quando si dice licenziamo, ma io sono d'accordo a licenziare tutte le persone che non valgono. Ma io sono un professionista che sono sul mercato. Se scrivo un libro e non lo legge nessuno, non lo compra nessuno, è come se fossi stato mandato a casa, no? E se io vado a una conferenza e non viene nessuno, vuol dire che sono giudicato male. Perché l'insegnante di mia figlia non deve essere valutata? Perché ci sono delle idee? Perché dovremmo pensare che ci siano delle terreni, no, di nessuno, dove chiunque, mettendo assieme persone straordinarie, come per esempio ci sono nella scuola, no, e cialtroni assoluti, perché devono guadagnare lo stesso stipendio? Per quale ragione al mondo è giusto cominciare a dire qual è l'istituto migliore? Cominciamo a fare le cose di qualità e poi ognuno anche prima io sono un medico, prima c'era un medico di Catanzaro, se non sbaglio. Sì, Sergio. Beh, anche lì, se uno è un bravo chirurgo deve guadagnare bene, se uno è un pessimo chirurgo deve essere allontanato. Questo mi sembra buon senso. Anche perché se non lo facciamo? Devo dirti, Paolo, che Monti ha annunciato, e speriamo che si faccia presto, un provvedimento sul merito. Siccome è un termine che nei vocabolari quasi non trovi più, forse è una roba obsoleta, anzi anacronistica quando la trovi. Vediamo se in Italia si riesce a fare questo salto di qualità. Sì, perché ma questo dipende, c'è troppa non iniquità solo dalla politica, anche da questo però, non solo dalla politica, e questo dipende anche dai cittadini. Perché quando ci sono dei genitori che scrivono i propri figli negli istituti che basta pagare, ti danno il documento finale. Bene, abbiamo fulgi di esempi anche più in alto. Sì. Beh, appunto, ma anche tra tanti gente comune, genitori non così conosciuti. E questo è un fenomeno terrificante. Figuriamoci dagli esempi poi in alto. Senti, e anche però i ragazzi che accettano questo. Non è colpa solo dei genitori se io mi iscrivo all'istituto a pagamento con uno pseudo tutor e poi ovviamente corrisponde un diploma che non vale nulla, una laurea che non ti porta a fare nulla nella vita. Domando ai ragazzi: ma perché voi ci state? È una bella domanda. Poi vediamo se qualche ragazzo voglia di rispondere all'800240024. Giovanni da Roma. Buonasera. Buonasera, Giovanni. Senta, io vorrei soffermarmi sul fenomeno, diciamo, che sì, della corruzione, sì, e del volume delle tangenti che ha raggiunto 60 milioni di euro, 60 miliardi di euro. Questo lo dice la Corte dei Conti, Cittadinanza Attiva, e lo dice anche la Banca d'Italia, perché quando parla di economia non osservata, certamente lo mette accanto all'economia da crimine e l'economia, diciamo, al nero. Ora, mentre si sofferma tutta l'attenzione giustamente sull'evasione fiscale, nulla si dice a proposito di questi 60 miliardi di euro annuali. se non una leggina adesso che hanno fatto la corruzione lamentando si tenta di fare questa legge anticorruzione, c'è qualcuno che frena, non si capisce perché. Frena, sono questa domanda, questi sono spesi, sono soldi pubblici, perché le tangenti incrementano la spesa pubblica, non è che la diminuiscono. Quindi o chi è preposto osserva totalmente il fenomeno, perché se un'opera pubblica deve costare il 30, il 40%, il 20% in più, e le tasse aumentano, ma perché le tasse devono pagare anche le tangenti? Io non lo capisco questo. Allora, siccome ha assunto una misura così esagerata, quasi da macroeconomia, si facesse una procura nazionale, si obbligasse i notai a trasmettere a un ufficio centrale, perché le tangenti vengono dal settore pubblico, non è che vengono dal settore privato. Allora, questi immobili, questi grandi investimenti o piccoli investimenti, insomma, si stabilisca qualche misura, perché insomma 60 miliardi di euro è una finanziaria. Giovanni, è un problema annosissimo questa della corruzione, tanto che l'Emiro, non mi ricordo se del Qatar o di dove, recentemente a Monti aveva detto che non era la mancanza di investimenti in Italia il freno, non era l'articolo 18, era proprio la corruzione. Gennaro da Napoli. Buonasera. Buonasera Gennaro. Senta, io volevo fare una proposta da cattolico, partendo dalla mia esperienza, ispirandomi al modello olandese. In Olanda i cattolici sono sì cattolici, sono molto più ossequenti, ossequosi, diciamo rispettosi, non mi viene la parola, di quanto lo siamo qui in Italia. Però i fatti che si leggono qui in Italia, in Olanda non si vedono, non si concepiscono. Cioè la Chiesa deve imparare dal modello luterano. Non è possibile continuare a dire sono le persone. Nelle chiese cattoliche non trovano le morti luterane, non trovano i morti dopo 20 anni. Gli scandali che succedono alle banche vaticane nelle chiese luterane non si verificano. Quello che succede in Italia, succede solo in Italia. Ormai il prestigio della Chiesa in tutta Europa, lo dico da cattolico, è totalmente compromesso. Se non si comincia a capire che è necessario un modo di rigenerazione, e questa cosa secondo me si riflette anche nella società italiana. La società italiana è così corrotta perché la Chiesa non riesce a fare pulizia al suo interno e l'influenza della Chiesa nella società italiana è così profonda che alla fine il cane si morde la coda. Io lo dico da cattolico, se qui non si trova un modo per risolvere questa situazione, non cambia l'atteggiamento, non si modernizza la morale sessuale, non la si smette di fare strani affari. E io trovo assolutamente assurdo che una persona come De Petis sia stato sepolto in una basilica, manco fosse un santo. Ma questo è stato uno scandalo enorme. Se si trova dentro, addirittura come pare, ossa di 30-40 anni fa, lo scandalo aumenta. Potrebbe essere quella dell'Orlando. Sono vergogne intollerabili che distruggono il prestigio dei fedeli, distruggono il prestigio di una religione che ha 2000 anni di storia. Non possiamo andare avanti così. Lutero aveva ragione a questo punto. Quindi, e lo stiamo dimostrando in economia e lo stiamo dimostrando nella società. Ma quindi Gennaro, ascoltami, dalla Chiesa Cattolica ti sposteresti a quella protestante? No, io penso che si debba copiare il modello olandese, il cattolicesimo olandese, in cui anche lì sono cattolici, anche lì ci sono tantissime persone molto più, diciamo, rispettose, osservanti di quanto lo sia qui, ma si deve rimettere al centro il modello etico. Bisogna smetterla con questa sessuofobia, bisogna smetterla con questo attaccamento al denaro, bisogna smetterla con questi atteggiamenti che secondo me sono farisaici. Gennaro, guardi, è così, c'è poco da fare. La società, l'Europa non segue più la Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica, invece di essere un modello, dà continuamente pessimi esempi. Gennaro, sento tutta la tua passione di cristiano e di cattolico. Paolo Crepè, qualcosa su questa... No, è che il problema è sempre lo stesso, è la selezione della classe dirigente, che sia nello Stato, che sia nella Chiesa, che sia... È sempre quello. È sempre il problema. Noi abbiamo bisogno di nuove idee, di nuove persone, noi abbiamo bisogno di un visionario, non di... Papa Luciani, era visionario, lui parlava anche dell'ingresso massiccio delle donne nella Chiesa, anche ad altre gerarchie, semplicemente a fare le ancelle. Infatti è quello che ha fatto la brutta fine. A proprio di coraggio, c'è un prete, diciamo, un sacerdote a cui il coraggio non manca. Eccolo qui, Don Severino. Caro Don Severino, che ci propone questa settimana? Buonasera e buon pomeriggio. Propongo questo, cioè, perché il denaro, diciamo, gioca un ruolo così centrale? Cioè, dov'è la forza per combattere nella curia la tentazione del potere? È semplice, noi dobbiamo fare una netta distinzione. Cristo è una cosa e la Chiesa degli uomini un'altra. Fino a quando molti uomini della Chiesa non accetteranno di entrare, diciamo, in un ospedale per farsi curare, diciamo, le loro problematiche mentali, sì, i problemi saranno questi. Cioè, il punto è questo qui, semplicissimo, insomma, no? Cioè, molti personaggi, diciamo, ecclesiastici, purtroppo hanno tali problemi psicologici interiori che si buttano in queste cose qui. Del tipo, non si vede, tipo di problemi? Tipo problemi. Ma perché la Chiesa, per esempio, attacca sempre e continuamente la vita sessuale delle persone, o omosessuali o eterosessuali, e non attacca allo stesso livello, diciamo, il denaro, la cupidigia, il potere? Perché? Semplicemente perché gli piace, diciamo, vivere quella realtà, diciamo, omofobica, eterofobica, eccetera, perché è così, cioè il problema è questo. Se Cristo, la figura di Cristo, viene tolta dall'interno, diciamo, della Chiesa, gli uomini sono uomini. Grazie, Don Severio, sei stato chiarissimo. Ciao. Grazie, un abbraccio. Ciao, abbraccio. Ciao, altrettanto, ciao. E però, Don Severino, adesso invece vorrei sottoporre la parola della settimana alla nostra Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Cara Valeria, visto che se ne parla tanto, vorrei chiedere da un punto di vista linguistico, questo grillini, come lo leggi? Che interpretazione dai? Bene, grillini. Allora, intanto la parola grillino ha fatto la sua prima apparizione nel 2006 e da allora la sua ascesa, parlo di quella dell'ascesa linguistica, è stata inarrestabile, tant'è che poi sono nati anche altre parole, verbi, grilleggiare, aggettivi, grillesco, grigliano, sostantivi, grillista, grillismo, eccetera eccetera. Questo mi dà il modo di fare due considerazioni. Chi fonda movimenti o partiti dovrebbe pensare come prima cosa alla possibilità di coniare un nome per gli appartenenti, e in questo caso il cognome del comico ha funzionato molto bene. Per quale motivo? Perché la parola grillo evoca simpaticamente la memoria del grillo parlante di Pinocchio. Però allora viene un dubbio, e quindi il grillo parlante, la voce della coscienza, no? Però viene un dubbio: ma Beppe Grillo, a parte il nome, sarà più grillo parlante o il lucignolo della situazione? Aiaiai, ci lasci con questo dubbio, grazie. Ciao Valeria Della Valle. Ciao. E adesso sentirei molto sinteticamente, abbiamo proprio una manciata di secondi, Franco da Milano. Franco? Sì. Ti riesci? Buonasera, buongiorno a tutti. Buongiorno e buonasera. Io semplicemente, sì, visto che si parlava di coraggio, sì, farmi un attimino al momento in cui Monti ha parlato riguardo Equitalia, i fatti, i cittadini che non hanno i soldi e le cartelle esattoriali. Sì. Esattoriali. E volevo chiedere, ma non è stata una mancanza di coraggio comunque prendere atto che c'è un sistema che effettivamente sta vessando i cittadini, i quali arrivano addirittura ad ammazzarsi perché non riescono a far fronte a dei debiti che magari costruiti anche magari artificiosamente? Monti ha fatto una dichiarazione in cui chiaramente non poteva non difendere l'istituzione di Equitalia, che è un'istituzione dello Stato, ma non è che si... diciamo che il motivo di sconforto verso chi lavora per Equitalia è il sistema che hanno messo in piedi, con cui si costruiscono questi debiti. Sembra che adesso stiano, Franco, prendendo dei provvedimenti per fare pagare a rate, per cercare di verificare dei centri di ascolto, anche speriamo che effettivamente qualcosa di concreto si faccia, perché la situazione per molti è davvero disperante. Grazie Franco. Una cosa. Ma non si poteva accendere un cerino di speranza a tutte quelle persone che hanno queste cartelle esattoriali che sono spaventose, sono terrificanti? Non è stato questo un attimino un'occasione persa o una mancanza di coraggio da parte di Monti? Cioè, che cosa doveva fare Monti, Franco? Non ho capito. No, poteva soltanto dare un segnale, un timido segnale in cui praticamente prendeva atto di una situazione che... Ti dico, degli annunci, Franco, per ora ci sono stati, vediamo se sono soltanto annunci oppure no. Paolo Crepè, io ti volevo chiedere in chiusura, a parte se vuoi commentare anche questa cosa, ma ho letto questa notizia che dovrebbe fare tremare molti uomini, molti mariti: tradire la partner fa male al cuore, maggiore rischio di infarto. e pare che il motivo sì, proprio è una ricerca tutta italiana questa, presentata all'Università di Firenze, e potrebbe essere il senso di colpa. A me pare una roba extraplanetaria veramente questa, il senso di colpa maschile. Vedi, il problema è che anche nelle università il problema della classe dirigente si pone, perché se ci sono i ricercatori ti puoi immaginare te come, anche dove vanno i nostri figli a imparare, da della gente che non sa neanche cos'è una ricerca. Queste sono delle sciocchezze, perché il problema è che poi in questi anni la politica, ma non solo la politica, ha eletto la visibilità l'unica no, dote da raggiungere, per cui anche un povero professore universitario deve trovare il modo, l'appiglio, a dirne una inventarsi che più balla di così non può, essere Paolo, perché così va a finire sui giornali. Eccoci, e noi invece finiamo in questo momento, grazie a Paolo Crepè, spero di ritrovarti presto, salutami Bruno Vespa, e intanto da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.